fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento. Io sono in compagnia di due splendide ragazze con un ragazzo. Come si chiamano? Alessia. Chiara. Michele. Buonasera ragazzi, siete qui per festeggiare? Sì, un compleanno. Wow, ma forse l'ho intervistato prima? Esatto. Christian. Esatto. Ok. Mi ha detto, siamo diciamo... Dirigente. Non so di cosa, ma vabbè. Non ho capito, non lo sa nemmeno lui. Come vi siete conosciuti con il dirigente? È colpa allora, di Chiara. Allora, mio compagno di scuola, non di classe, di scuola. E poi, vabbè, l'amicizia è continuata nel tempo. Poi loro sono miei amici e quindi di conseguenza glielo... Amici portano amici, giusto? Sì, esatto. Infatti prima mi sentivo a casa, stavo con due insegnanti, un DSGA, un... Anche noi siamo anche insegnanti. Anche tre voi? Insegnanti. Perché nella vita, diciamo, al di fuori del convento sono una bidella, un collaboratore scolastico. Ah, okay. Quindi mi sentivo a casa, ho detto, oh, bellissimo. Voi ancora a casa? Sì, infatti. Voi dove insegnate? Sempre nella stessa scuola del dirigente? No, a Novara. Novara? Meno male che noi insegniamo con lui, Noi dai, stiamo a Legnano, noi stiamo a Legnano. Dai, ma non l'ho visto così male il dirigente. No, si scherza, dai. Può dirlo Chiara, lo conosce da tanto tempo. Chiara, dai, facci anche una dedica. Dacci così un aneddoto, dici un aneddoto. Un segreto, dai. Quando era a scuola, lui ha esasperato i suoi professori. Sì. E quindi adesso il karma dovrebbe morirlo. Ci sta guardando. Però adesso esaspera gli alunni. Ma immagino. Lui cosa insegna prima di diventare dirigente? Cosa insegna? Lui fa economia. Ah, economia. Sì, che bella tosta come economia, materia. Sì, i suoi alunni sono contentissimi. Sì? Sì, sì. Perché sì, se sì ne va o perché 2, 3, 4, contentissimi. Oddio, sei seria? Sei seria? Sì, sì. No, diciamo che sono contentissimi allora che passa a diventare il dirigente. Sì, però si divertono, in compenso si divertono. È bello guardarlo perché... Effettivamente è simpatico, sì, però sì, giustamente lui è rigido nella sua materia, bello. Quindi bella però questa cosa, anche mi fa piacere. Anche lei è rigida nella sua materia. Cosa insegni? Italiano e storia. Cos'è una superiore o è un superiore, sì. Ah, quindi è bella tosta, sì. Sì. Però sei giovane, quanti anni hai? 29. Mamma mia, non te ne davo. Non li dimostri, cioè, no, qualcuno in più. Diciamolo. Cioè, 33, 34. Cioè, ragazzi, dovreste vederla voi. Comunque io non te l'avrei mai dato 29 anni. 23, vero? 23. Sì. 23. Sei mia coetanea, va bene. Esatto. E tu cosa insegni invece? Io? Sì, tu. Io anche come lei, italiano, abbiamo fatto la stessa università. Ah. Quindi, sempre nelle superiori? Sempre nelle scuole superiori. Bene. Diciamo che siete proprio a contatto con non gente che secondo me vuole studiare proprio niente. È esatto, anche l'indirizzo in cui insegniamo. Che indirizzo è? Io sono in un professionale e in un ITIS. Ciao. Io anche professionale meccanico. Beh, diciamo sono quelli proprio che sì lo fanno proprio per farlo, tanto esatto, per ottenere una licenza per poter lavorare. Con i miei meccanici chiacchieriamo tantissimo, ho imparato tantissime cose, ma loro non tanto da me. Ma loro non hanno imparato nulla da te, secondo me. Ho imparato io. Vabbè, qualcosa di produttivo c'è stato, sì, però sì, c'è sì da dire quello e quello. Aspetta che però sono in ballo. Però i meccanici sono simpatici. Sono simpaticissimi. Gli ingegneri diciamo meccanici. Allora, perché lui insegna. Ah, ecco. È di parte. Siamo simpatici. So cos'è un iniettore. Ah. Adesso sì. Lo sai cos'è? E cos'è? Sì, cos'è? Spiega. È lo spettatore. Allora, per esempio, a volte c'è una spia che è la spia del motore, ma potrebbe derivare dall'iniettore, perché quello regola le emissioni per fare in modo che siano pulite. E cosa inietta? Cosa inietta l'iniettore? Mio Dio. Inietta wow gas. Gas, brava. Vero? E nella macchina diesel cosa inietta l'iniettore? Nella macchina benzina cosa inietta l'iniettore? No. Jerry Scott diceva, la risposta è nella domanda. Benzina. Benzina. Si trova vicino alla batteria, un po' più in basso. Vabbè, non per forza però. Vabbè dai, io l'ho vista là. Vabbè, ah, però è preparato, dai, per essere una donna che queste cose neanche io le so, che ho mio padre che fa il meccanico, quindi non perché io i miei meccanici li ascolto, loro me non tanto. È questa la differenza, il problema esatto principale è quello. Sono maschi, diciamo, non ascolteranno mai. Esatto, è quello il problema. Non è il fatto che sia meccanico, è il fatto che sia maschio. Ma detto da un maschio poi ancora sì di più una verità. È consapevole però. Non tutti lo sono. No, è che sono talmente presuntuosi. Noi siamo coerenti. È presunzione, capito? Non è consapevole. L'importante è che diciamo, se facciamo sempre con la testa. Okay. È giusto. Che poi non ha capito niente, è una cosa diversa, però. Ma quando vogliamo capire, capiamo. È giusto, proprio. È giusto, ci sta. Però è stato sincero. Siamo tre donne contro una. No, non mi va perché si è già autodenunciato, distrutto da solo proprio. Cioè, si è fatto proprio la sua distruzione. Ha fatto la tomba da sola. No. Va bene, ragazzi, io vi lascio e vi lascio proseguire la serata. È stato un piacere conoscervi. Grazie mille. Anche per noi. Buona serata. Ciao. Lavoro.